È arrivato sul pallone con il botto del cannone, è arrivato sul tre ruote con la dotta sulle gote, è arrivato in aerostato coi forzuti del Caucaso, sul Mercedes cabinato è arrivato il Maragia. Hola, buenos días. Hoy vamos a presentar un nuevo programa de radio que llamaremos No Solo Eros. Aunque parezca raro, no vamos a hablar nada más que de música y además de música italiana. No Solo Eros, porque en este programa queremos hablar no solo de personajes comerciales y muy famosos como Eros Ramazzotti, pero queremos dar la posibilidad a todo el mundo de conocer otros artistas y otros valores que en Italia son ya muy conocidos y que aquí son auténticos desconocidos. El primer autor que vamos a presentar se llama Vinicio Caposella. Es realmente un personaje muy singular y muy particular. Y además es el autor de esta estupenda canción que será la sintonía de nuestro programa. Las orígenes artísticas de Caposella están ligadas al teatro y al cabaret, y esto se nota muchísimo en la forma de cantar. Y su voz rota y profunda también nos recuerda a otro cantante como Tom Waits o al mismo Paolo Conte, que es otro cantautor italiano muy importante. El primer tema que vamos a presentar hoy se llama Tango del Murazzo, Vinicio Caposella. Accoglie tutti, abbaglia tutti, abbaglia il Maragia, fa da padre da padrino, alza tutti al suo destino, non bisogna più pensare, pensa tutti. Si avvicina sempre più vicino, l'ombra lo copre sull'asfalto senza fiato. Sono noi. Estupenda canción de Vinicio Capossela. Vamos a escuchar otro tema del mismo autor, pero en colaboración con Roy Paci. Roy Paci es un otro gran músico que evidentemente le dedicaremos un programa porque hay muchas cosas que contar. Con esta canción me despido. Chao a tutti, hasta pronto. Viene dall'acqua e viene dal sale, la penitenza dall'amaro del mare. Il capitano s'avanza e niente si può fare, vuole una morte, la vuole affrontare e l'aspettava dove il sole cala. Cala e non muore, l'acqua non lava e il demone lo duole, s'avanza di paura. La madre mia che sacra e splende sul legno, è rivolta l'onda, la sol che poi l'affonda, e i fuochi s'accendono e danzano fatui sull'acqua che è gialla di oblio e di streghe e petrolio. Il vento non alzava e il mare imputridiva, legati a un solo raggio, come presi in ostaggio, il comandante pace avanza nel peccato, e il demone che suo adesso vuole mio, e prende con il sangue e giura anche per me, all'odio ci convince, se la sua che vince deve essere anche mia. Anche mia. E i fuochi non videro la luce, non videro la messa, chi altri non l'avesse, e il cielo fece nero, e urlò la nube è il cielo. Affannò di abisso e si affamò di abisso, abisso che altri non prendesse, che altri non prendesse. Anime bianche, anime salvate, anime venite, anime addolorate, che abbia solo due soldi sopra gli occhi, due soldi d'oro, due soldi per l'onore, che abbia il pegno per pagare il legno la dura foca del traghettatore. Ai madre mia, salvezza prendimi nell'anima, salvami il cuore. Ai madre mia, ai quasi si escono l'abbraccio tuo, lo sa nell'acqua. E vieni occhi di flora, vieni al tuo lavoro, vieni spettro del tesoro, la vela tende. Il vento se la prende, la vela cade, le arinni allontanate, accesi sui pennoni i fuochi fatui, i fuochi alati della Santissima dei naufragati. Il tempo stremava, l'arsura cuoceva, infuocava le gole, le labbra bruciate spandevano la voce. Parlavamo a levare il silenzio dal mare e nessun angelo venne a levarci la croce. E il legno cedeva nell'acqua suo pianto, bruciava di sale lo schiaffo del mare. La vela cadde, il legno fermò, l'arsura riprese, la sete li asciugò. E gli uomini spegnevano, spegnevano il respiro, e il cielo rigò di sbarre il suo portale. La faccia di fuoco dentro imprigionò, lo spettro vedemmo venire per ghermire, venire di lontano, nero di dannazione. Vite in morte, quello era il suo nome, vite in morte.